Salute gente nata per zappare, salute abbastimenti per la vita. Ti esinti guida forza canuppare, ma cala stanga regge alla salita. Salute e grazie per i tanti tuni, cade la terra porti allo paese. Petti e succhini sempre lici stuni, e la campagna ride ad ogni mese. È popolata la cucina dei paradiso d'ora per lupano. La marcia è sempre bianca de farina, la pace e il piacere uniti stanno. Ci vino picca solo bascilale, se ferma lo progresso a mezza via. Se incanta lo motore nazionale e tende in chianta in terra caristia. Saluta a carca e pisa volontà, ti porti la bandiera per sanare le piaghe della santa civiltà. La fronte te dar lampa de sudore, te incoggia la camisa sull'upietto, si degna de una storia e dell'onore. Te meriti la gloria e lo rispetto. Ti esinti a prima vetra da nazione, a vita, pace, o bene la ragione. Таласа от греческого паласа, что означает море. Это песня протеста и надежды. Дарио Мучи Констатори, поющий о своей земле, о море, у побережья Салента, о мигрантах, о боли и всегда в любом случае о любви. Его голос пропитан историей и сражениями, а также историями людей, которым Дарио дарит свой голос. Ci dice che lo pesce ancora ria, sta aspetta sul lu momento giusto. Se scuso in ciannaro lu de ulia. Ci dice a Santa Silica l'ha visto, ca questa terra noscia non si tocca, terra di contadini e pescatori, non vi pensate che sta gente scappa, nanzi le vostre sporche operazioni, sta terra. Gente che non pote faticare, ci incasta a casa che non potessire, ci l'avvocato ancora la pagare, ci manco a Santa Sili potessi. lo Stato fa la guerra ai cittadini, fagnoni, mamme e nonni per la via, uniti in piazza contro le oppressioni, ci cunno canto e ci cunna poesia, sta terra. Quanti son tu, li veleno si cano puoi toccare, già li cristiani andave senza contù, di cui ti talicano t'affidare, o li ti bevi che è della terra mia, casirma e mamma l'hanno faticata, la vigna o grano e l'alberi teulia, cussuturi de sangue se l'hanno ordiata. Non ci funziona più senza di te, Bice si sente abbandonata dalla sua gente pure tradita. E quando bevi il sigaro alla la pace, piglia parte tu scaffietto e la pausa, il tamburietto continua a suonare, senti la terra che anche gente chiama. Lo Stato fa la guerra ai cittadini. Таласа разворачивается через 8 песен с текстами на диалекте Салента, а также на грико, итальянском и арабском языках. 8 песен и новая форма написания, выходящая за рамки привычного для Дарио Муччи, который после 25 лет деятельности дебютирует со своим альбомом неизданных песен, в котором, не размахивая политическим флагом, подчеркивает песня за песней противоречия сегодняшнего дня. Scuro e lo fondale, come lo cielo senza luna certe sere, ma stanotte non c'è Dio sta mezzo mare, manco stelle che potete secutare. Ma quanto ancora non c'ha subire, e sta libertà quanto la pagare, capitano, me nasciamoli a tirare, l'uomo a mare non si lascia l'uomo a mare. На протяжении своей карьеры совмещал интенсивную концертную и студийную музыкальную деятельность. Он дал множество концертов в Италии, во Франции, в Испании, Португалии, Германии, Голландии, Англии, Греции, Албании, совершил турне по Индонезии и Таиланду, Северной Африке и Австралии. Он также является продюсером и издателем. В апреле 2016 года он опубликовал для Анима Муни «Барберия и песни Салента», том 2, посвященный музыке комнат для бритья, с документальным фильмом о маэстро Антонио Канцеларо. Дарио участвовал и в джазовых проектах, сотрудничал с Паулу Фрезо, Рафаэле Казарана, Марко Бардошио, Джастином Адамсом, Джульди Камара. Дарио принимал участие и в создании нескольких саундтреков к документальным и художественным фильмам, включая «Чудо», «Слезы Мадонны» и «Божьей милости». Frate mui, cancello sulle, fattene pieno all'anima di luce, e fanni, e fatte luce, capando minute e tanti e nulla gioi, oggi la gioi va senza lucigno. Non resci tu mi manco una candela e un retolato di spietosi l'ipospirita mosce nella lingua e muore ne ridendo Da fratello a fratello, ora che c'è il sole, fatti un pieno di luce all'anima e illuminati, che quando tramonta e la cerchi non la trovi, o se la trovi va senza lucignolo. Non riesci ad accendere nemmeno la candela e uno dopo l'altro dispettosi i fiammiferi ti mostrano la lingua e muoiono ridendo. Thank you. camminano per le strade, persi come piccini senza magia, senza lo sguardo che li vuole bene, ma sugli occhi che fanno male, che son tu uomini e non animali. Tutto era per essere normali, la conoscimo già sta storia, perché siamo meridionali. Sorriati gli marrucchini, con di cogghino li pummitori, e sorriati gli tunisini, con di cogghino li miluni, qui giù che a noi non ti piace fare. Mandamo schiavi per faticare, noi solo questo sappiamo fare. Qui giù di fuori le mucco mandare. Arrivano i caporali, la gerarchia non è caduta, e sotturnati i generali, tutta la lotta non è bastata, sti disgraziati stanno menati, mezzo la strada sotto gli uliveti, sfruttati e senza dignità. Questa è la nostra società. Mohammed è morto come uno schiavo, lasciato solo come un cane, mezzo un campo abbandonato, sotto gli corpi di lucauto infame. Mohammed è morto perché hanno luto, non l'ha voluto certo lo sole, ma qualche tu non l'ha mandato, cu sbocca sangue a mezzo fuori. Amara terra mare, amara terra mare, amara terra mare. Lo paese si è organizzato, una grande manifestazione, ministri e sindaci di parte, che parlano di integrazione. Ma come si parla di integrazione, se c'è solo emarginazione? Questa è la terra dell'accoglienza, ma facci di me un favore, amore mio, ritorna a casa. Amore, non mi chiami più, sarà successa qualche cosa. Amore, dimmi tu addosso stai, che son tu uomini e no animali. Tutto dovrebbe essere normale, la conoscimo già sta storia, perché siamo meridionali. Альбом Таласа таки необыкновенный. Стиль его для души. На вопрос «Для чьей?» отвечу: «Для чувствующей и благодарной». Это мужской диалог с морем и воздухом, когда женщина уже ушла, но в зеркале еще тает ее отражение. День таки удался, ты жив. Над головою крыша, за северным окном грозовые тучи, западное туманом мокнет, южное солнцем бодрит. И ты посреди всего этого, какие еще объяснения? Никаких. Анукерия, апану пупане пукане, менгици сараде. Ime olo, olo di cosu. Isali, isali, assadi a me luce, c'è tremasso. E così ca, ma e così ca. Me canni nambo a sabia, sono pali a capi. C'è me cordone san. Tornerò sti in fontana. Ite la naime quando sei. C'è na fisto pai. Senati paisana potamo pano e sol c'è a zeo la potizes mi metadesi mai. Ti me panta me sena. Ti i sei agapio ia ti i su i sei talassa i su i sei talassa i su i sei talassa. Demane a sera vanno i giornatieri, senti sano prima pesse lo sole e vanno a faticare a tutte l'ore e si ma suonano allo scurire. C'è giorni che non tornano alla casa spezzati a toi per quanto sei fatia. Ci guarda in cielo e ci sta se riposa, ci dorme sotto un albero e via. E passa lo padrone a mezzo fuori, nero e 40 paga lo quintale, la spaggia è torta e non si può fiatare, questa è la sorte dello stagionale. E quanto mare fanno per venire, lo scuro e profondo che face paura. Sta terra noscia fa morire, così sta terra ha perso la memoria. Дарио Мучи, Таласа, 14 июня 2024 года. Anche adesso al tramonto sono belli gli ulivi, con il sole alle spalle che gli trapassa i rami. Come coltelli di luce non sembrano neanche secche le ultime foglie aggrappate in cima, ma screziate di un fuoco sacro. Anche adesso sono belli gli ulivi, di una bellezza divina mai vista prima, ed è come se ogni volta si dovesse morire per diventare tremendamente belli. Ed è come se ogni volta si dovesse morire per diventare tremendamente bella.